sono le antiche villotte, patrimonio di un popolo poeta, che i numerosi complessi corali friulani attivi anche fra voi rendono con spontanea polifonia. Donne e uomini, contadini e artigiani di San Lorenzo di Sedegliano interpretano ora Notte d'aprile di Arturo Zardini, poesia di Pietro Zorutti. Abbiamo scelto per voi, nell'orto della poesia friulana, un sonetto di Vittorio Cadel de Fanna, pittore e scrittore, caduto dal cielo della Macedonia durante un volo di guerra nel 1917. Ora dorme accanto ai suoi morti, nel cimitero del paese natio. Si intitola A mia madre e non vuole commenti, tanto abbiamo o abbiamo avuto tutti una mamma. A me mari, mama. Il tuo nom agliempla il cor d'una dolcezza e d'una soavitat chin tal clamati al par calmanti il flat, al par da nove vos pal nostri amor. Mama, il tuo nom ale il profum d'un flor. Tu e tu guarissi il mal cul ciò bussà, tu e tu guarissi il cor sale malat. Mamma, femmina santa dal Signor, quanch' il soreli a sera al va a dormi devouri arbui, il mio pinseir curint al torna, o mamma, ai viei riquarz di un timp. Il timpal passa e su di noi al singruma, ma il cor arresta giovin e ti sint a chiantu c'ha inciamò sulla mecuna. La riconoscete? È la Furlana, cara al Papa Santo, a Pio X, il quale, così la tradizione, avrebbe bonariamente suggerito di contrapporla al dilagare del tango. Un po' fuori di moda, se vogliamo, ma tanto aggraziata e castigata nelle movenze che dal primo incontro alle prime immancabili bizze, dall'offerta del fiore al travolgente finale, compendiano l'intero poema dell'amore. Thank you. È sera, o amici lontani. Anzi, è sabato sera. La gioia della festa che viene entra nelle case in cui si prepara la cena. Dalle porte, dalle finestre aperte al vent e nustente odor di polente. Ma non sempre fu gioia lassù. Le guerre spensero spesso i focolari del Friuli, ne sospinsero spesso profughi gli abitanti. È comprensibile perciò la preghiera rivolta alle campane che rombano a festa, di serbare la più bella armonia per il gaudio della pace, restituita finalmente nei cuori. O amici che ci ascoltate, le voci delle campane del Duomo di Udine, che riprendono e dilatano i rintocchi che sfumano nell'azzurro livido per le prime stelle. Friuli nel mondo. Friuli nel mondo, è terminata la trasmissione dedicata agli emigrati all'estero. Testo di Chino Ermacora. Hanno partecipato alla trasmissione il soprano Maria Moreale Pozzi, il coro di San Lorenzo di Sedegliano, diretto dal maestro Leandro Plenizio, il complesso folcloristico udinese, dizione poetica di Ottavio Valerio. Sono state eseguite villotte popolari e musiche originali di Arturo Zardini e Luigi Garzoni.